Tra le tante tristezze della settimana che ha visto l'insediamento del primo governo non antifascista della Repubblica, tra le manifestazioni di arroganza dei vincitori e le deprimenti espressioni di rassegnazione degli sconfitti, nulla, ma proprio nulla, mi ha afflitto di più dello scambio di lettere tra il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il Presidente del Consiglio allora incaricato Silvio Berlusconi, come riportato dalla stampa mercoledì 11 maggio ultimo scorso. In quei due documenti, e particolarmente in quello che porta la firma del nostro Capo dello Stato, mi è sembrato di leggere il sintomo più evidente dei tempi duri che ci aspettano tutti. Lo so, a sinistra, diciamo così, tra le persone da bene, la lettera di Oscar Luigi Scalfaro, con rare eccezioni, è piaciuta. Non fosse altro perché ricordava all'onorevole Presidente, come dice lui, alcuni problemini cari al cuore di tutti noi, l'esigenza che quanti si sarebbero visto affidare le responsabilità attinenti alla politica estera assicurassero piena fedeltà alle alleanze, alla politica di unità europea, alla politica di pace, la necessità che colui che sarebbe stato preposto come responsabile del Ministero degli Interni non assumesse posizioni politiche in contrasto con i principi di libertà e di legalità, nonché con quello d'Italia una indivisibile, e quella che il governo tutto si mostrasse rispettoso dei principi della solidarietà sociale. Preoccupazioni che nel loro insieme, diceva il Presidente della Repubblica, toccano la vita di ogni Stato democratico. Ma poi non ci voleva un gran sforzo di intelligenza per rendersi conto che quelle esortazioni in buona parte constavano di quello che il buon Ernesto Rossi amava chiamare aria fritta, nel senso che avrei proprio voluto vedere un Presidente della Repubblica invitare un Presidente del Consiglio a non preoccuparsi affatto di pace, di principi di libertà e di legalità o di vita democratica dello Stato. E quando non erano aria fritta, erano improprie. La democrazia è bella perché è rischiosa, e se la maggioranza dei cittadini lo decide non c'è proprio motivo perché non possa cambiare le alleanze, rinunciare alla politica di unità europea e persino mandare a quel paese, se proprio ci tiene, il principio di unità nazionale. Si può obiettare che non sempre la maggioranza dei cittadini coincide con quella parlamentare di governo, ma allora non bisognava approvare e promulgare con tanto entusiasmo la legge elettorale maggioritaria che era fatta apposta per togliere di mezzo la necessità di quella coincidenza. Ma quest'oggi il punto non è questo. Il punto è che i termini della Costituzione, finché c'è, è il Presidente della Repubblica che su proposta del Presidente del Consiglio nomina i ministri. E quindi, se ha qualche motivo di temere che questo o quel personaggio possa giocare qualche brutto tiro alle libere istituzioni, non ha altro da fare che non nominarlo. Non è mica facile, lo ammetto, come problemino politico è piuttosto spinoso. La maggioranza ha il diritto di governare e non è lecito toglierglielo. Ma la democrazia, oltre che rischiosa, è difficile. Esiste sempre il rischio che la maggioranza espressa abbia delle idee un po' strane su come esercitare il proprio ruolo. E comunque la maggioranza può molto, ma non tutto. Per esempio non può prevaricare i diritti della minoranza, e per questo esistono gli istituti di garanzia. E il Presidente della Repubblica, come continua a dire lui anche, è appunto il garante della Costituzione. Compito ingrato di questi tempi, e io non lo invidio proprio per niente. Ma voler fare il Presidente della Repubblica è stato lui, e non è scritto da nessuna parte che il ruolo di garante sia tutto rose e fiori. Se per garantire la democrazia bisogna sbattersi, allora il Presidente della Repubblica, per favore, si sbatta. Il fatto è che di sbattersi il buon Oscar Luigi non ne ha proprio voglia. Ha fatto un po' come quel famoso procuratore romano in Giudea, no? Ha espresso i suoi dubbi, ha richiamato gli altri alle loro responsabilità e alla fine ha ingoiato il rospo e ha piegato il capino. E se il paragone non vi sembra adeguato, possiamo sempre trovarne un altro. All'onorevole Presidente del Consiglio incaricato, l'onorevole Presidente della Repubblica ha chiesto soltanto di starci attento. Sapete, come una volta chiedevano le fanciulline timide ai partner in occasione del primo rapporto, e il partner, l'onorevole Presidente del Consiglio, gli ha risposto con viva cordialità che certo ci starà attento. Dopodiché, come alle fanciulline di cui sopra spesso capitava di imparare a spese proprie, non c'è altro da fare che sperare nella provvidenza.